E allora, sono arrivate le 11 in punto e noi siamo in collegamento con Lula. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, Lula, facci sapere, insomma, dopo questa notte, quali sono le condizioni dei somali, chiaramente dove si trovano. Sappiamo che comunque le soluzioni che sono state trovate quantomeno hanno fatto sospendere questa fruizione davvero indelicata e senza dignità che si era trovata per alcuni di essi, e cioè in questo sottopassaggio all'EUR, quantomeno per questi giorni, insomma, anche così duri dal punto di vista delle temperature e del clima, un rifugio, insomma, più idoneo è stato trovato, no? Sì, è stato trovato un rifugio più idoneo. Sono stati sistemati al centro di prima accoglienza, il centro Baobao, che si trova sulla Tiburtina. Un altro gruppo sono stati sistemati al centro di via Sivicella, e adesso le loro condizioni sono stazionarie. Noi come comunità stiamo aspettando di un tavolo, come ci hanno comunicato, che dovrebbe essere fatto venerdì tra il comune e la prefettura e il Ministero degli Interni, che speriamo ne esca qualcosa di buono, perché questa emergenza freddo finisce il 31 di marzo e noi dovremmo sapere prima di questa data quale sarà il futuro o il destino di questi ragazzi. Senti, hai detto che le condizioni sono stazionarie, insomma, magari puoi essere un po' più precisa. Sono stazionarie perché questa è una situazione, una soluzione iniziale. Non sappiamo cosa sarà della situazione di questi ragazzi dopo il 31 di marzo, perché l'emergenza freddo finisce il 31 di marzo. Noi vorremmo trovare una soluzione con le istituzioni italiane di quelle che faranno dopo il 31 marzo. Ma quindi c'è da credere, insomma, che da qui al 31 marzo la situazione rimanga confinata nell'emergenza freddo, quando sappiamo chiaramente invece che le soluzioni da trovare, le strade da intraprendere sono ben altre. Quindi il sentore è che fino al 31 marzo comunque possano rimanere in questi centri di accoglienza? Sì, però dopo il 31 marzo non sappiamo quelle che ha deciso per loro. Cioè, noi vorremmo sapere, e stiamo chiedendo alle istituzioni, quale sarà il futuro di questi ragazzi dopo il 31 marzo. Non vorremmo ritrovarci in piazza del Campidoglio dopo il 31 marzo a richiedere un'altra accoglienza. Deve trovare una soluzione prima del 31 marzo per sapere dove andranno a finire il primo aprile questi ragazzi. E beh, è chiaro. Sì. D'altra parte, insomma, cosa si sta muovendo sotto il profilo istituzionale per cercare di sbloccare questa questione, insomma? C'è questo incontro venerdì? C'è questo incontro, la speranza di questo incontro di venerdì, perché sono stati istituiti diversi tavoli per questi ragazzi, dalla quale non sono mai uscite delle soluzioni. Speriamo che questo tavolo ci sia e che ci sia anche la soluzione. Senti, puoi ricordare ai nostri ascoltatori quali sono le personalità convocate a questo incontro? Il Ministero, da quello che so, il Ministero dell'Interno, la Prefettura e il Comune di Roma. Quindi anche il Comune, insomma... Perché il Comune a questo punto... Questi ragazzi, siccome tanti di loro, ma la maggior parte di loro, la parte competente, da quelle che ci hanno detto l'autorità del comune, loro l'hanno fatto come prima accoglienza. Loro, quelle che stanno aspettando oggi, è la seconda accoglienza, che di dovere dovrebbe essere fatta dalla prefettura e dal Ministero degli Interni. No, certo, è anche importante però che il comune, insomma, faccia qualcosa e si smuova, visto che la situazione, insomma, di emergenza l'ha provocata Alemanno con i suoi metodi di sgombero che ben sappiamo e conosciamo. Sì, lo sgombero c'è stato anche in una maniera drastica e dura, ricordando, tornando un po' indietro con la memoria, questi ragazzi hanno passato una notte sotto passaggio della metro di Barberini e una notte al sottopassaggio delle Fermi. Cosa sgradevole per dei rifugiati politici, accettati come rifugiati e per motivi umanitari. Non è umanitario lasciare sotto le scalinate e della metro dei ragazzi di 20-30 anni. Senti, magari, ecco, Dopo una notte d'inferno, come temiamo sia stata quella passata insomma al sottopassaggio Eurfermi, magari insomma un attimo di respiro questi ragazzi sono riusciti ad averlo, no? Ora ce l'hanno. È stata somministrato insomma un pasto caldo e qualcosa insomma comunque per fortificarli un po'. Speriamo, sì, però sì. Io sono dall'idea, quello che dico è che domenica notte, invece di portare lo sottopassaggio, lo si poteva portare anche il centro Bau Bau, che c'era quella sera anche, era disponibile, cioè non era necessario mandarli lì. Quindi c'erano posti per tutti in quel centro? C'erano posti per 45 persone anche domenica notte, invece di portarli dopo il secondo sit-in di lunedì mattina, ce lo potevano portare anche la sera prima, questo è il fatto. E quindi come al solito insomma le situazioni, le soluzioni tampone non solo sono totalmente inadeguate, ma addirittura insomma vanno sono inesistenti, ecco, perché sì. Quella del sottopassaggio non la si potrebbe neanche definire soluzione tampone. Il sottopassaggio della quale ci dicono che anche è stato dichiarato inagibile, cosa che bisogna certo. Anche appurare, e c'è gente che ci vive dentro. Dalle foto che sono uscite, insomma, la situazione davvero sembrava da girone dantesco, senza possibilità di respirare, visto che vista la mancanza di finestre, senza acqua, insomma, che sia stato il comune a proporre una cosa del genere. Quando è davvero scandaloso. Poteva disporre del centro Bau Bau, certo. Che era disponibile, dopo 12 ore c'è stata la disponibilità di quest'altro centro. Perché non è stato proposto domenica invece di lunedì? Questa è la domanda che ci facciamo. Senti Lula, per chiudere, voi state mantenendo un confronto aperto e continuo tra di voi? Sì, sì, tutti i ragazzi ieri hanno partecipato alla manifestazione della giornata contro il razzismo, oggi parteciperemo alla fiaccolata contro la violenza sulle donne e ci teniamo in contatto diretto. Va bene, allora ci risentiamo nelle prossime ore in attesa di questo incontro di venerdì. Grazie. Ciao, ciao Lula, grazie a ciao. Te. Ciao.